a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuova puntata di A Regola d'Arte, benvenuti e ben trovati da Francesco Galante. Ricordo, A Regola d'Arte con l'Unione Provinciale Artigiani ci presenta il nutrito mondo dell'artigianato veneto e oggi parliamo di una serie di iniziative con il presidente del sistema di categoria acconciatura ed estetica di UPA Padova, che è con noi al telefono, che è Ennio Mazzon. Ben trovato. Buongiorno, grazie della vostra disponibilità. Signor Ennio Mazzon, oggi vogliamo toccare vari argomenti, no, del sistema di categoria acconciatura ed estetica. Apriamo con la segnalazione di un appuntamento che ci sarà il prossimo 28 novembre. Sì, il 28 novembre all'Hotel Crown Plaza di Limena, in collaborazione con un'azienda del nostro settore, abbiamo organizzato una giornata formativa per tutti i nostri associati all'UPA. Praticamente il titolo è Collection Tour Ricerca Moda, Stile e Tendenza, che non è altro che un'anticipazione di tutte le collezioni che andranno il prossimo anno. È bellissima questa cosa, nel senso che non è quindi che un acconciatore va a caso nel taglio dei capelli, c'è una linea di tendenza che viene un po' definita, no? Sì, la linea di tendenza che è studiata appunto da tutti gli stilisti. In questi giorni proprio a Milano ci saranno delle presentazioni a livello internazionale, per cui tutti gli stili vengono prima confrontati e poi si lavora con un filone comune in direzione alla prossima tendenza per il prossimo anno, insomma. Ho capito, quindi lo ripetiamo, all'Hotel Crown Plaza di Limena il 28 novembre alle 14.30 c'è questo appuntamento. Ma se uno è curioso e volesse venire, si può entrare oppure? Guarda, è aperto a tutti i nostri colleghi, specie sì, quelli che vogliono avvicinarsi al mondo dell'aggregazione e della formazione proprio con l'Unione Provinciale Artigiani. Le porte sono sempre aperte, per cui ben venga se qualche nostro associato voglia avvicinarsi a queste giornate di formazione, nessuna preclusione. Ho capito, quindi ci saranno delle modelle e si andrà proprio a vedere questi nuovi tagli di tendenza. A toccare con mano tutto quello che sarà il prossimo anno, tutte le prossime tendenze di taglio, acconciature e colori, insomma. Ecco, io faccio una domanda un po' forse da ignorante, no, nel campo, ma ovviamente questa cosa qui è più rivolta al mercato femminile piuttosto che a quello maschile, oppure no, c'è, diciamo, anche una che tendenza? È comune, fatto sia sul maschile che sul femminile, per cui ci sarà un connubio di acconciature maschili e femminili. In collaborazione con un'azienda di abbigliamento avremo anche un accenno di quello che sarà la moda presa a portè del prossimo anno. Ah, beh, benissimo. Allora, teniamoci liberi per il 28 novembre, l'abbiamo dato con un buon discreto anticipo, uno se lo segna sul calendario, alle 14.30 Hotel Crown Plaza di Limena. Adesso vorrei chiederle invece di un'altra iniziativa. C'è un'iniziativa che è stata promossa proprio dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova in questi anni, ha promosso il gruppo d'acquisto Insieme Conviene. Che cos'è? Esattamente. Allora, 3 anni e mezzo fa, in 5 parrucchieri, abbiamo avuto la sensazione che c'era il bisogno di aggregarci per trovare un modo di competere nel nostro mercato, che sta cambiando abbastanza velocemente. E siamo partiti con tanta buona volontà. Dopo 3 anni siamo arrivati a una 70 di aziende, tra parrucchieri e estetisti, che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è di poter beneficiare di una certa scontistica sull'acquisto di prodotti e attrezzature per il nostro settore. In più, in collaborazione con le aziende del nostro settore, abbiamo una formazione gratuita che ci viene fornita appunto da queste aziende, con dei formatori qualificati che si mettono a disposizione per far crescere il livello di innovazione e di competitività nel nostro settore praticamente. Ecco, anche per non restare fermi sempre sui soliti prodotti, insomma, la conoscenza e l'informazione aiuta magari a migliorare il servizio. Senz'altro, guarda, io sono convintissimo che l'aggregazione fa crescere proprio, c'è una circolazione del sapere, genera innovazione e produce molto più efficienza. Quando si è insieme si diventa più forti, non c'è dubbio. Ecco, il settore dell'acconciatura, dell'estetica è molto cambiato negli anni. Io per esempio, parlando di estetica, mi ricordo, parlo forse degli anni 80-90, quando in ogni dove nascevano i posti dove ti andavi ad abbronzare, no? Con i centri di estetica. Com'è cambiato nel tempo questa cosa? Guarda, ormai sono delle beauty veri e propri, dove un percorso di benessere non è più il centro di abbronzatura, ma è un percorso proprio di benessere. Da quando si entra è un'attività a 360 gradi e ti trovi tutto un percorso che copre tutte le necessità della cliente, insomma. E per quanto riguarda le acconciature, in giro nelle città sono sorti anche tanti negozi gestiti da cinesi che offrono dei prezzi molto più bassi rispetto alla norma. Guarda, questo è un tasto un po' dolente, diciamo, per il nostro settore. Questo è anche stato uno dei motivi che ci ha portato ad aggregarci, proprio per far crescere il livello formativo di tutti i nostri associati e dei nostri dipendenti, perché crediamo che questa sia l'unica via per poter far fronte a questa mercificazione a prezzi stracciati, dove non sono garantite né la qualità dei prodotti né il tipo di servizio che viene fornito. Ci fermiamo un attimo con una canzone e poi torniamo ancora insieme con Ennio Mazzon. This was all you. Your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Yeah. a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Seconda parte di A Regola d'Arte, ancora un saluto da Francesco Galante, ma ancora un saluto ad Ennio Mazzon, presidente del sistema di categoria acconciatura ed estetica di UPA Padova. Allora, signor Mazzon, adesso vorrei chiederle un'altra cosa, perché so che c'è una bella iniziativa che avete messo in atto, un'iniziativa di volontariato allo IOV e all'OPSA di Padova. Sì, questa iniziativa è stata messa insieme da appunto l'associazione di volontari ospedalieri dall'AVO e si intitola Non smettere di piacerti. Praticamente sono dei volontari, un gruppo di 6 volontari che dedica un lunedì pomeriggio al mese alle donne malate di cancro costrette ad affrontare la caduta dei capelli purtroppo avvenuta in seguito alla chemioterapia. Cosa succede in questi incontri? Vengono dati dei consigli utili su come gestire magari il proprio aspetto attraverso l'uso di parrucche o piuttosto con delle estetiste che considerano come truccarsi al meglio, insomma, in questi momenti, diciamo, un po' meno felici. Sì. Sì, anche perché poi uno ha già la malattia ti fa cadere i capelli, ti vedi in una maniera diversa di come ti sei sempre visto per tutta la vita, e questo ovviamente crea anche un disagio doppiamente forte e una depressione, insomma, se vogliamo. Quindi vedersi meglio aiuta anche a stare meglio. Fondamentale. Difatti questi colleghi che partecipano a questa opera di volontariato, prima di fare una cosa del genere, hanno fatto un percorso formativo con colloqui di approfondimento con esperti psicologi dello IOV, proprio per riuscire a seguire e dare un supporto a queste persone che hanno bisogno, insomma. Beh, gran bella cosa, complimenti quindi all'Associazione Volontari Ospedalieri, allo IOV e soprattutto a questi acconciatori che si mettono a disposizione proprio una volta al mese, abbiamo detto. Sì, guarda, inoltre volevo segnalarti che oltre all'AVO e all'Associazione Oncologica ci sono una cinquantina di colleghi che da 40 anni prestano la loro attività di volontariato presso l'OPSA appunto di Sarmeola di Rubano. E questi un paio di lunedì al mese forniscono le loro prestazioni proprio al servizio di questi ospiti dell'Opera della Divina Provvidenza gratuitamente. Per cui io vorrei ringraziare e cogliere l'occasione per ringraziare tutti questi colleghi, e invito magari qualche altro collega che possa essere così sensibile all'iniziativa di mettersi in contatto con l'Unione Provinciale di Artigiani per poter dare una mano, insomma. Certo, il lunedì, perché di solito gli acconciatori, i barbieri, insomma, il lunedì è il nostro giorno libero. Dovrebbe essere il giorno libero in realtà, fra formazione e queste opere di volontariato c'è sempre da fare. Insomma, il mondo dell'artigianato è quello che ha pochi giorni di festa, diciamo così. Va bene, bellissima cosa, bellissima iniziativa, perché ci sono molte persone che offrono il loro tempo per delle opere di volontariato e a noi fa ulteriormente piacere poterle segnalare. Quindi la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. In questa puntata. È stato un piacere. Grazie quindi a Ennio Mazzon, presidente del sistema di categoria acconciatura ed estetica di UPA Padova. Chiudiamo l'appuntamento di Tracce di Musica, come facciamo ultimamente, con la segnalazione di un servizio ulteriore. L'Unione Provinciale Artigiani di Padova si è accordata con I'm Energy per avere un risparmio doppio. Due grandi energie insieme per dare il meglio, con un'offerta imbattibile per luce e gas domestici. L'opportunità di risparmio gestita in forma gratuita per gli associati in regola con il tesseramento è rivolta a tutti i familiari dei titolari di impresa, ai loro collaboratori dipendenti e anche ai pensionati artigiani. Prevede uno sconto del 20% sulla componente materia prima elettricità e un 13% di sconto sulla componente materia prima gas. Ulteriori 5 euro di bonus vengono attribuiti al cliente per ogni autolettura del contatore gas effettuata alla fine dei mesi pari. Il risparmio complessivo annuo con consumi medi è stimato in circa 107 euro. Se il fornitore del mercato libero, il risparmio annuo medio individuato sale addirittura a più di 300 euro. Le condizioni economiche sono valide fino al 31/12/2017, indipendentemente dalla decorrenza di ciascun contratto. Come aderire? È sufficiente inviare una copia delle ultime bollette complete di dettagli, luce e gas, ai riferimenti seguenti: energia@upa.padova.it. Oppure c'è il numero di fax allo 049 8206 400, o potete fare riferimento presso la sede UPA più vicina a voi. Lo sportello Energia di UPA elabora la stima del risparmio e la comunica all'interessato. Ripeto, quindi cercate informazioni presso il sito di UPA, www.upa.padova.it, email energia@upa.padova.it, oppure fax allo 049 8206 400. Ed è tutto per Regola d'Arte, un saluto da Francesco Galante, ritorniamo puntuali la settimana prossima a quest'ora su queste frequenze. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.